Emanuela, ritornando dal collegio di Stefania, stanca per aver lungamente camminato, s'era stesa sul letto prima di scendere a cena. Era svuotata dalla desolazione nella quale l'aveva gettata l'incontro con la figlia. Le pareva una catastrofe senza rimedio, alla quale bisognasse rassegnarsi. E tuttavia non credeva possibile che tutto quanto ella aveva patito e lottato si disfacesse così, un'aerea cattedrale di piume di fronte all'indifferenza della bambina. A poco s'era addormentata. Si destò d'improvviso all'energico bussare di Silvia alla porta. «C'è Xenia da te?» «Xenia? No, no, perché? Dormivo, entra!» Ma già l'altra si era allontanata e bussava alla stanza di Milly, ripetendo la domanda. «C'è Xenia da te?» «Chissà perché la cerca da Milly», pensò Emanuela. «Non ci va mai. Quando Xenia o Vinca parlano, Milly le ascolta senza comprenderle, come se parlassero una lingua diversa». È tardi, molto tardi, non ho neppure mangiato. Silvia ci veniva a chiamare per la seduta spiritica. Le sembrava di essersi destata nel folto della notte. Erano le 9:30. Il cappello, la pelliccia, la borsa, tutto buttato lì come quando era entrata. Aprì il cassetto per riporvi la borsa, i denari nella scatola insieme con lo smeraldo. Dov'è lo smeraldo? Ansiosamente si guardò intorno. No, non l'aveva messo. Cercò, sollevò, sfogliò i fazzoletti, aprì di nuovo la scatola, la scosse, come se lo smeraldo di Stefano dovesse venire fuori da un doppio fondo. Nulla, nulla. Forse sul comodino, sul tavolo. Bisogna cercare con calma nella borsetta. No, è impossibile. Nella borsetta, forse per terra, sotto il comò, accese un fiammifero, polvere, lanugine, nulla. Uno smeraldo si vede subito, è grosso. Non c'è. Lo smeraldo di Stefano non c'è. Suonò due tocchi alla conversa e quando entrò la scrutò con diffidenza. Sei entrata in camera mia? Sì, ho rifatto il letto. Sì, ma dopo? No, dopo no. Non hai visto uno smeraldo? Uno smeraldo? Sì, un anello con una grande pietra verde, uno smeraldo. L'altra scosse la testa e disse: No, mai visto. Ma Emanuela era piena di sospetti. Chi hai visto entrare qui oggi? Nessuno? La signorina Milly insieme con lei. Poi la signorina Xenia è venuta, ha bussato per sentire se lei c'era, è entrata. La cercava, si vede. No, non le signorine. È passato nessuno? Le suore? Ma no, volevo dire estranei, non so, operai. Operai? No, che verrebbero a fare gli operai? Tutto è in ordine, nessuno è venuto. Va bene, grazie. L'altra uscì fuori, era zoppa, sembrava ebete. Fa bene la parte, ma io vado subito da Suor Lorenza, pensò Emanuela. Girò ancora gli occhi intorno e fece per uscire. Mentre richiudeva la porta, vide tornare Silvia. Senti, Silvia, ma la vide sconvolta, anche lei era agitata. Lo sai, Emanuela? Lo sai già, Xenia è scappata. Dove? Che ha fatto? Scappata, non si sa. Ha portato via un fagotto, un pacco. La camera è in ordine, le suore volevano negare, pensavamo che si fosse ammazzata. È scappata, era senza un soldo. Xenia? Sì, Xenia! La signorina Xenia è venuta, è entrata. Ah, fece Manuela. Ma non dici nulla, sai qualcosa? Io? No, non so nulla. Dove vai? Vieni su? Andiamo, sì, vengo su per la seduta. Che seduta vuoi fare? Ma che hai, Emanuela? Non hai capito ancora che Xenia è scappata di collegio? Certo, ho capito, appunto per questo sono stordita. Salgo con te, saliamo. Raggiunsero le altre in camera di Augusta, che sedeva con la tartaruga in grembo carezzandola come un gatto. Stavano in piedi tutte. Anna schiacciava noci coi denti, poi le apriva pungendosi le mani. Silvia disse: Non sapeva nulla, Emanuela. Non mi pare ancora vero, questa aggiunse. E Augusta, non parvero a nessuna di noi, temevamo, capisci, che si fosse ammazzata. Valentina disse piano, ma non siamo sicure del contrario. No, fece Manuela, no, certo, non si è ammazzata. Sei sicura tu? E che ne sai? Le chiese Vinca. Ma non hai inteso, è andata via col pacco. E poi, quando uno si uccide, lascia una lettera. Pensi che non avrebbe scritto una lettera a noi? Già. Ma perché allora questa fuga? Se ci avesse chiesto qualcosa l'avremmo aiutata. No, fece Augusta duramente, lo diciamo adesso, nessuno l'avrebbe aiutata. Lei sapeva questo e perciò se n'è andata così. Si udì la voce della suora gridare: Luce! Augusta si mosse, accese il lume, lo pose sul tavolo, accanto al quale Silvia, affranta, s'era seduta. È notte ormai, le 10, non rientra più, non rientrerà neppure domani. Per noi, nonostante questo, tutto seguita, vedete? Suor Prudenzina grida Luce, le altre compagne non sanno nulla e noi non possiamo neppure andare a cercarla. Ah, sarebbe ridicolo, impossibile. Sì, ma già sarebbe fare qualcosa per lei. Invece non facciamo nulla, non possiamo fare nulla. È andata via, chissà dov'è. Non può essere che con un uomo, fece Valentina. Che farebbe sola? No, disse Manuela, sarà sola invece. Se fosse andata via con un uomo ce l'avrebbe detto. È andata a tentare la vita. Se sta con un uomo è felice. E che ne sai tu? Disse Augusta. Forse è orribile. Non lo sappiamo nessuna. Se una di noi lo sapesse, non la vorremmo più con noi, poiché sarebbe già scesa alle ragioni profonde della vita. Appena fu buio, Valentina si mise a piangere. Ho paura. Penso che a tutte ci debba accadere qualcosa di male. Forse Xenia è morta. Si è buttata nel Tevere. Galleggia sull'acqua. Ho paura. Dio, Dio. Anna seguitava a stritolare le noci. Valentina, smettendo di piangere, d'improvviso mormorò: Forse dorme accanto a un uomo, forse. La sua voce partiva dal fondo della camera e si sentiva timorosa. Forse questa è la sua prima notte. Su questa frase tutte rimasero a pensare. Xenia dunque aveva sempre covato un segreto, anche quando divideva ogni ora con loro. Ieri dormiva lì vicino, appena oltre la parete, e ora forse dorme accanto a un uomo? Tacevano tutte come per un istintivo pudore, si fingevano distratte e intanto ricercavano nella memoria il volto di Xenia, i grandi occhi accesi, certo suo modo di ridere, riudivano la sua voce dura, improvvisa. Se è così, Anna disse infine, Xenia è in peccato mortale. Allora Silvia irruppe. Sì, ma io non so se c'è Dio. Certe volte ne dubito, lo sapete? Bisogna che ve lo confessi, ascoltate. È terribile. Dicendolo ad alta voce mi sembra di bestemmiare. Eppure, talvolta, quando siamo nella cappella e preghiamo e ci inginocchiamo, io penso che forse facciamo tutto ciò a vuoto. Chi di noi è certa delle dottrine che professiamo? Se riflettiamo bene, sono cose assurde, sono favole. Tutto ciò vive e si regge soltanto sulla nostra fede. Ma pensate, se mentre stiamo pregando s'affacciasse un grosso uomo dal fondo della cappella e nel nostro raccolto silenzio dicesse ridendo: Che state a fare lì inginocchiate? Che aspettate? Non sapete che non c'è nulla? Dio non esiste. Che cosa faremmo noi allora? Le altre perplesse tacevano e lei continuò: Quando penso a questo, la mia fede vacilla. Dubito, comincio a credere che si tratti di un fenomeno di suggestione collettiva, mi ribello. Sto leggendo adesso un libro sulla creazione della Terra, si è creata da sé, incontri di atomi, di corpi, di masse, e perciò non voglio sentir parlare di peccato mortale. Ah, è una morale comoda la tua, ribatté Vinca. Io credo e penso che Xenia ha fatto male ad agire così. Ha fatto male, replicò Silvia, forse sì, ha fatto male, ma non per il peccato. Per la sua intima coscienza davanti alla quale dovrà giustificarsi. Abbiamo ognuna una religione segreta. Quando questa crolla, allora veramente tutto è finito. E in fondo noi siamo rassegnati a morire, perché speriamo che al di là si ricominci a vivere una vita come questa, con un altro volto e un altro nome. Se fossimo certe che non c'è nulla, ci uccideremmo per risparmiarci il tormento dello scolarsi dei giorni. Xenia ha creduto che ci fosse qualcosa fuori, lo diceva sempre. Non ci ritorno, vero lì? Le strade sono strette, buie, la casa odora di aglio. È andata a vedere che cosa c'è. È come quelli che muoiono. Ma quelli non ritornano. E neppure Xenia ritornerà a dirci che cosa c'è di là. Tutte fecero silenzio. Valentina d'improvviso sussultò e disse: Sh, un passo! Ma fuori era silenzio. È nulla, disse Anna, e anche le altre, guardando la porta, scossero la testa. Il vecchio, poi che ebbe finito di leggere la lettera di Suor Lorenza, la ripiegò con cura, la fece scivolare in tasca. Forse adesso la porta si apre e Xenia entra dicendo: Sono stanca. come lei faceva. Forse Xenia è in camera sua, forse è arrivata e non ha osato mostrarsi. Nella camera di Xenia, dalle persiane socchiuse, entrava la luce del crepuscolo, così tenue che si capiva tra poco la notte sarebbe scesa, soffice e densa. Nessuno nella camera. Ieri, preparando per il suo ritorno, il padre e la madre dicevano: «Il tavolo lasciamolo libero, ci metterà tutti quei libri». Attendevano timorosi questo ritorno. Si sarebbe chiusa in camera, avrebbe pianto chissà come o sarebbe scappata a passeggiare fuori dal paese. «Non voglio vedere nessuno, nessuno!» aveva scritto. No, in camera Xenia non c'era. Eppure la lettera di Suor Lorenza spiegava chiaramente: «Xenia è uscita di qui domenica alle 4». Domenica alle 4 egli stava giocando a 3-7 al caffè. Non aveva sentito che a quell'ora, come diceva la lettera, con un pacco sotto il braccio, la figlia se ne andava. Proprio non c'era in camera. E allora richiuse la porta. Andò alla soglia di casa, guardò fuori. Abitavano a pian terreno. Di qua, di là si stendeva la strada polverosa. Nel gran prato di contro, ai piedi della collina, si smuoveva dolcemente un ciuffo di pioppi sotto il quale Xenia in estate si sedeva a studiare. Tornava entusiasmata. «Vedrai quest'inverno!» diceva. Poi raccontava avidamente, assaporando le parole con ghiottoneria. Progettava: «Quando avrò preso la laurea!» Diceva sempre così. Neppure in lontananza si vedeva la sua alta figura per la strada. «È impossibile che non venga! Verrà forse domani!» Nervosa, come quando durante le vacanze rincasava tardi la sera. «Sono stata a prendere aria. Mangio adesso. Perché si deve sempre mangiare alle 8? Ho orrore, capite? Orrore delle vostre consuetudini». Sarebbe tornata dicendo: «Perché dovevo arrivare il giorno preciso che ho detto? Non ho salutato nessuno in collegio. Ho orrore dei commiati». Sicuramente era così. Egli palpava la lettera in tasca, rassicurandosi. Avrebbe scritto a Suor Lorenza. «Lei conosce il carattere della mia figliola. Arriverà certo, arriverà!» E pacato accese la pipa. Ma il fumo gli si intoppò in gola, un nodo spinoso come quando si manda giù un grosso boccone di pane, e togliendosi la pipa di bocca tossì. Gente passava in bicicletta, senza rumore, sulla polvere. Soltanto le ombre si distinguevano ormai. «È notte», il vecchio pensò. Intanto vide davanti a sé la moglie che tornava dal paese e insieme rientrarono. «Non c'è, vero?» ella gli chiese. «Sono andata al treno, eppure diceva arriverò. Forse verrà con un altro treno. Non venite alla stazione, non voglio che si parli di ritorno». Chissà perché ha scritto così. «Sono andata lo stesso, tenendomi lontana perché non potesse vedermi». «Non devi angustiarti», il vecchio rispose. «È arrivata una lettera della suora, Suor Lorenza, sai, dice che Xenia tarderà qualche giorno, 1 o 2 giorni». «E i soldi?» «Oh, non fa nulla, dicono che non pagherà, e così tu sta tranquilla». «E dov'è la lettera?» «La lettera? La lettera? Oh, guarda, devo averla lasciata al caffè. Vado a prenderla dopo, purché non l'abbiano buttata via. Ma ti dico, c'era scritto proprio così, 2 o 3 giorni». La donna girò attorno per la stanza e disse: «M'ero abituata all'idea che sarebbe stata qui stasera». «Eh sì, anche io, ma Xenia...» «Sì, forse lei sarà contenta. Io penso che ho fatto bene a non preparare la pizza stasera. C'è il brodo. La carne la lasceremo per domani, che ne dici? Potrebbe arrivare anche domani». «Eh sì, forse domani. Lasciamola la carne». Buio fuori, buio fitto. La donna si muoveva tra i mobili seguendo un fioco barlume che penetrava dalla porta. Notte. Il padre si sgomentava. È notte. Quanto più la luce si affievoliva, gli nasceva dentro un'inquietudine sempre più insistente. L'ansia gli tremava sulla pelle, sulle labbra. Non poteva star fermo e tuttavia voleva dimostrarsi sereno per non inquietare la moglie. Si ripeteva mentalmente le parole della lettera, cercava di convincersi che non era cosa importante. Xenia sarebbe tornata domani o forse tra un'ora. Ma era buio ormai, notte. Dov'era Xenia? Avrebbe voluto uscire per le strade, chiamarla, o meglio andare alla stazione, aspettare ogni treno. Xenia, è notte! La moglie s'era seduta alla tavola, le braccia incrociate in attesa. È curioso, fece, ma mi sembra che sia qui. Che sia uscita in paese e debba ritornare da un momento all'altro. Egli le afferrò il braccio, le chiese: «Ti pare, vero? Anche a me». e presa una sedia, sedette, guardando la porta, accanto alla moglie che ripeteva tranquilla: «Sono proprio contenta, vedi, di non aver fatto la pizza». Xenia si trovava a disagio, entrando sola al ristorante. Si faceva coraggio pensando: «Si vede che sono forestiera, si vede che sono in viaggio». E poi c'era l'imbarazzo di scegliere sulla lista delle vivande, non sapeva decidersi, leggeva, rileggeva e finiva per ordinare una cosa che non le piaceva. Imbarazzata, non sapeva dove guardare, per questo sempre portava un giornale con sé e lo leggeva attentamente. Temeva di trovarvi scritto: «I genitori supplicano la loro Xenia di tornare a casa, tutto sarà sistemato». A volte neppure si rendeva conto di essere fuggita. Il giorno della fuga, all'ora solita, stava per riprendere la via del collegio. Le sembrava che scappare dovesse essere una cosa molto più difficile. Erano le 4 quando uscì dal collegio. Entrò in un cinematografo, ma era troppo agitata, non poteva interessarsi della pellicola. Vedeva sullo schermo, come in sovrapposizione, tutti gli avvenimenti della sua pericolosa giornata. E poi era infastidita da un uomo vicino a lei che la guardava anche attraverso il buio e le sussurrava ogni poco qualche parola all'orecchio, un invito. Uscì per liberarsene. Girovagò nelle strade, imbarazzata dal fagotto, e verso sera entrò in un alberghetto. Precedendola per una scala stretta e male rischiarata: «È sola?» Il facchino le domandò e poi le chiese i documenti. Fu quello il solo momento nel quale ella temette di essere scoperta, ma l'uomo che l'aveva accompagnata alla camera se ne andò tranquillamente e Xenia sedette aspettando che qualcosa succedesse. Nel corridoio si aprivano, si chiudevano porte, si udivano voci. «Mi cercano, mi trovano, ormai avranno saputo che sono qui». La notte è infittiva, ormai se ne sono accorti al collegio. Ma già il Grimaldi le appariva come uno di quei paesaggi visti in sogno. Cercava di rivedere i volti delle compagne, ma non li ritrovava. Si dileguavano, non poteva neppure immaginare che cosa le sue amiche facessero a quell'ora. Sapeva solo che stavano chiuse là dentro. Si sforzava di riafferrare le loro voci, erano tutte simili e opache, come se parlassero, sommessamente. Ricordava con chiarezza soltanto la camera di Emanuela, il comò, il cassetto che resisteva. Soldi non c'erano. Dove nascondeva i soldi? Frugò dappertutto, anche tra la biancheria. Aprì la scatola di pelle. Oh, che bell'anello! Dapprima lo infilò al dito. Che cosa meravigliosa avere un anello così! Esitò un attimo, poi lo fece scivolare nella tasca del grembiule. Richiuse il cassetto, uscì lesta e prese a camminare nel corridoio con disinvoltura. Poco dopo, come in una domenica qualunque, uscì. Trascorse la sera seduta sulla sedia a pensare. S'augurava che il mattino giungesse presto, ma le ore passavano lentamente. Allora si spogliò, si mise a letto, respirando piano, come se ogni rumore la spaventasse. Si rannicchiò e rimase immobile, intimorita da quella stanza sconosciuta, dai passi che udiva nel corridoio. Andò via presto al mattino, si diresse là dove tante volte passando aveva visto gente entrare, gente uscire, con aria misteriosa. La città dove viveva da 4 anni quel mattino le apparve diversa, città di vacanza, di avventura. Dentro c'erano molte persone già pratiche del luogo. Xenia attese che tutti se ne andassero, perdendo il suo turno parecchie volte finché una faccia bolsa si sporse dallo sportello. Chiamò: «Signorina!» Lei si avvicinò, porse l'anello, disse: «Questo!» e aspettò emozionata come quando entrava nell'aula dopo gli esami per udire il voto. Temeva che la pietra fosse falsa. Nella notte questo pensiero le aveva tolto il sonno. Emanuela non lo metteva mai. L'uomo, con un occhio incapsulato in una lente che glielo ingrandiva smisuratamente, esaminò la pietra con attenzione. Poi, rivolgendosi alla ragazza, un occhio strizzato, l'altro enorme dietro il cristallo, domandò: «Cosa vuole?» Xenia rispose stupita: «Denaro? Eh già, ma quanto? 1.000?» «Sì, 1.000!» Egli studiò di nuovo l'anello, scrisse sui registri, a tratti sollevava la testa e il suo sguardo tondo scivolava addosso alla ragazza. Le chiese nome, cognome, indirizzo. Xenia dette un nome qualunque, un indirizzo qualunque. Non si sa mai, quella lì mi denunciasse. A uno l'uomo contò i biglietti facendoli schioccare. Alla stazione le dissero che il treno per Milano partiva alle 12, 2 ore d'attesa. Xenia sedette nella sala d'aspetto. Accanto a lei C'era una vecchia con un bambino dalla testa affasciata e un marinaio. Le pareva spesso di vedere dietro i vetri passare fisionomie conosciute, gente del pensionato, dell'università. Allora, arrossendo, volgeva la testa vivacemente dalla parte opposta. Aspettava che un passo si avvicinasse a lei, una mano si poggiasse sulla sua spalla. Xenia! Le vene le si gonfiavano di sangue fino ad olerle. Poi l'emozione si dissipava e lei riprendeva ad attendere, senza impazienza, assestandosi sulla dura panchetta, il pacco accanto a sé. Avrebbe potuto comprare un libro, ma non era tranquilla e leggere sarebbe stato impossibile. Si divagava guardando i lumi accendersi sugli scambi, i facchini passare coi carrelli che portavano le valigie. Nel treno si sedette nella stessa posizione della sala d'aspetto, come al cinema, come all'albergo, immobile, tesa. Guardava dal finestrino come sullo schermo di una lanterna magica. Vide passare gente, alberi, case, strade sconosciute e di nuovo la sera cadde. Nei lucidi nastri dei fiumiciattoli il giorno indugiava, ma già i lumi s'accendevano, divenivano punti vividi nel buio e così arrivò a Milano. L'albergo di Milano era simile a quello di Roma. Xenia si coricò subito e in breve si addormentò per la grande stanchezza. L'ultimo suo pensiero fu: bisogna ridare il denaro a Emanuela. Sì, una bistecca di filetto. Con patate? Con patate. Forse anche oggi non avrebbe concluso nulla. Avrebbe dovuto tentare di avere più denaro da quell'anello. Da domani poteva mangiare solo caffè e latte. Bisognava cercare una camera pagando tutto il mese in anticipo. I denari se ne andavano, non si sa come, e li ricontava ogni sera. Non è possibile che abbia speso tanto. Certo li ho perduti, e ricontava, e di nuovo sommava le spese, e il conto subito. Niente frutta? Frutta? Oh sì, frutta. La minestra è 1,80, filetto con patate 4,50, fanno 6,30. Frutta, servizio, coperto, insomma, saranno 10 lire. Caro. Domani devo spendere meno. Dunque, 6,30. L'arancia sarà 1 lira? Sì, avrebbe potuto spendere meno. Facendo mentalmente questi calcoli, la bistecca si era esaurita senza che ella ne gustasse il sapore. Alla banca bisognava presentarsi alle 2. L'annuncio diceva alle 14 precise. Nella sala d'aspetto altre ragazze aspettavano, le quali allo scattare della porta si volsero verso di lei che entrava e la scrutarono, pensando certo cosa può valere questa qua. Passate le 2, cominciarono a dare segni di impazienza. Una bionda ossigenata diceva: io me ne vado, quasi stesse lì per far piacere alla direzione. Balzarono tutte in piedi quando sulla porta comparve il capo del personale, un grosso uomo, la pancia festonata di catene d'oro. Con un gesto accennò alla più prossima dicendo: si accomodi, e la porta si richiuse. La bionda si gettò di nuovo su una poltrona, sospirando, e scoprì le gambe fino al ginocchio. Xenia fu una delle ultime. Università? Bene. Alla laurea? No, dicevo, appena iscritta allora. Hai liceo? Oh no, appena iscritta. È proprio alla laurea che sono stata bocciata, capisce? Alla laurea. Quale facoltà? Lettere. Lettere. Sempre lettere. Come si fa a scegliere lettere nell'epoca nella quale viviamo? Cose più importanti ci sono. Il suo nome? Costantini Xenia. Costantini? Milanese? No. Dica, paternità, maternità, dica, scriveva agitando ampollosamente il pugno che reggeva la penna. È iscritta al partito? Al GUF? Ha la tessera dell'ufficio di collocamento? Ecco, anche qui la stessa cosa, anche oggi niente. No, non si può allora, noi parastatali non possiamo. Lei deve andare. E le sue referenze? Non ho referenze. Non sono mai stata in un ufficio, le ho detto, ho dato la laurea 10 giorni fa. Famiglia, amici, parenti ai quali. Xenia rispose alzandosi: nessuno. Prima che l'altro la congedasse, chinò la testa, salutando. Egli la guardava senza posare la penna. S'era tolto gli occhiali per guardarla. Perché se ne va, signorina? Vado via prima che lei mi congedi. Non posso essere assunta. Lo so, non sono iscritta all'ufficio di collocamento, non ho referenze. Lo so, non è colpa sua, è il regolamento. E intanto io vado a morire di fame. Non piangeva, ma la voce s'era mutata. Sotto la pelle c'era una densa umidità che minacciava di sgorgare in pianto. Ascoltando le cortesi parole dell'uomo, Xenia scuoteva la testa. No, Non è possibile, all'ufficio di collocamento vorranno le referenze. Io sarei un'ottima impiegata, so il francese, l'inglese, un po' di tedesco. Le dico la verità, sono scappata di collegio per non tornare al paese. Adesso che le ho detto tutto questo, mi prende? Mi prende? Appoggiandosi al tavolo, si protendeva verso l'uomo, poi si ritrasse seria. Lo sapevo. Le ho detto questo perché, anche perché avevo bisogno di sfogarmi. Lei è molto gentile. È il regolamento, è giusto. Io potrei anche essere una ladra, no? Fece sorridendo amaramente. Queste ragazze invece sono venute tutte col loro pezzetto di carta in tasca. Forse vivono a casa con papà e mamma, lavorano per comprarsi le belle calze. Quello l'ascoltava interessato. Mi scusi, la ragazza continuava. E la disperazione. Sì, tornerò se avrò le referenze. Grazie, oh, grazie. E prese il biglietto da visita che l'uomo le tendeva. Sì, certo, lei è buono, grazie. Piegando appena la testa, dignitosamente uscì. Un'altra ragazza stava pronta dietro la porta. La bionda attendeva ancora. Le chiese come a tutte le altre. Bene? No. E l'altra disse. Se mi fanno aspettare ancora un po', me ne vado. Xenia uscì leggendo sul biglietto da visita Paolo Reni. Era un biglietto da visita pretenzioso, con i titoli d'onorificenza abbreviati ma gonfi in litografia inglese. Ci si vedeva in falsariga anche la grossa catena d'oro. La ragazza scese le scale, fu nel portone. Gente camminava di passo lesto sulla strada, gente che lei non conosceva, gente che andava a spasso o a lavorare. Nell'androne c'era odore di freddo. Xenia alzò gli occhi. E un raggio di sole metallico la ferì, rimase incerta sul portone, davanti alla sua giornata vuota, incerta se, uscendo, dovesse prendere a destra o a sinistra.